L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti in una nuova puntata dell'Altro Pianeta e ben ritrovato anche a un ospite che possiamo definire annuale di questo programma, ovvero Marino Piasentà, mente creativa e sperimentale di una piccola realtà piemontese attiva nel campo delle energie rinnovabili, premiato nel 2008 da Legambiente per il sistema FE che permette di recuperare il calore prodotto da sistemi frigoriferi. Piasentà negli anni ha adattato quel sistema a sfide diverse, realizzando impianti con sorgenti diverse, ma sempre senza alcuna combustione per il riscaldamento. In questo caso, quest'ultimo caso, parleremo anche di raffrescamento. Però ci siamo incontrati a Villa Cortese, che è in provincia di Milano, proprio nel piccolo condominio in cui Piasentà ha installato l'impianto che finalmente realizza la sua ambizione: la casa non solo passiva. Dopo aver fatto il condizionamento in pompa di calore geotermico ed aver superato il problema del riscaldamento invernale, nel senso che siamo arrivati a farlo effettivamente in modo gratuito, dovevo superare il problema del condizionamento estivo e riuscire a fare una macchina che avesse tra le sue caratteristiche un bassissimo consumo, in modo da arrivare a fare il pareggio rispetto al fotovoltaico che dovevo mettere. Allora, l'obiettivo oggi, le case costruite nuove per obblighi di legge devono avere una certa produzione di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile, il 50% in quasi tutte le regioni, in alcune anche 60%. Devono avere una produzione di corrente elettrica fatta da fonte rinnovabile che varia dal 30 al 35% per ogni regione. Allora, il nostro condominio è un condominio a poco tetto, tante abitazioni, e gli mettiamo il minimo di legge, poco di più perché abbiamo deciso di stare dalla parte della ragione, come dicono da noi. Però sostanzialmente abbiamo messo il minimo di legge. Ora devo fare una macchina che per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e condizioni e condizionamento estivo riesca a stare al di sotto della produzione elettrica. Beh, ci siamo riusciti. Abbiamo collaudato, abbiamo provato e questo qui è il primo condominio attivo, cioè che ha tutte le sue funzioni all'interno della casa, anche la produzione corrente elettrica, che è capace di sopperire per intero al suo consumo. Abbiamo fatto anche un'altra cosa carina, noi utilizziamo comunque acqua di prima falda perché si tratta di un condizionatore in pompa di calore integrato che ha una parte di condensazione ed evaporazione nell'evaporatore solare, ma un'altra parte viene dall'acqua che noi prendiamo, quella già inquinata di prima falda, a pochi metri sotto la superficie. Ora, dopo aver utilizzata per uso geotermico l'acqua di prima falda, abbiamo continuato l'utilizzo dell'acqua tecnica mandandola anche alle cassette dei bagni, all'irrigazione del giardino e a tutti gli scopi per cui può essere usata l'acqua tecnica. In questo modo l'abbiamo usata due volte e la casa è sempre più un corpo unico che fa tutte le sue funzioni. Villa Cortese si trova in provincia di Milano, molto vicina alla città di Milano, quindi molto raggiungibile, Cintura. Ci sono molti altri piccoli condomini in costruzione nell'area, però il momento non è dei migliori per l'edilizia. Questo ormai è un dato di fatto, è noto, sono diversi anni ormai che è così. Però questo condominio ha 8 appartamenti che sono stati quasi tutti venduti, quindi questo dimostra che questo tipo di realizzazioni ha mercato nonostante la crisi. Certo, anzi è a causa della crisi. Allora, l'anno scorso l'edilizia è stato il settore più colpito, ci sono stati suicidi e fallimenti e anche tutto l'indotto dell'edilizia è stato duramente colpito. Succede una cosa che io ritengo abbastanza strana, paradossale forse. Quando questo settore viene colpito e letteralmente massacrato, cosa succede? Succede che i pochi che riescono a sopravvivere sono quelli che fanno un edificio in classe A o A+, e allora questi vendono ancora gli appartamenti e costruiscono ancora. L'edilizia più popolare, quella di basso profilo, invece quasi sparisce, non riesce a vendere, ha difficoltà estreme. Una selezione sulla qualità, ma questa qualità, a causa della crisi, ha ridotto i suoi prezzi in effetti, per cui oggi questo costruttore sta vendendo a 2.100 euro al metro quadro nella Cintura di Milano, che è un prezzo bassissimo. Perché? Perché si è ridotta la spesa per la qualità per il lusso e paradossalmente l'edilizia italiana in questo periodo io la vedo migliorare, non peggiorare. La qualità è molto più alta, il prezzo è molto più basso sicuramente questa stranezza, che io indico come stranezza, potrebbe invece essere la forza, potrebbe essere la nostra molla per uscire dalla crisi. Io penso che in questo momento l'Italia, ma forse l'Europa, abbia necessità di una rivoluzione. È una rivoluzione morale, è una rivoluzione di intelligenza ed è la rivoluzione dell'energia rinnovabile, secondo me, la chiave di tutto. L'edilizia è il nostro mercato principale, è dove noi possiamo cambiare effettivamente il nostro approccio industriale. Per cui, insomma, nel male potrebbe... Forse qualcosa di buono può venire fuori. Negli anni in questo specifico settore, nell'edilizia di qualità, quindi penso alla classe A, A+, com'è questo condominio, ci sono state anche però molte speculazioni. In realtà forse si poteva già arrivarci prima. Allora, un po' sì, un po' no. Allora, di fatto negli anni scorsi abbiamo sviluppato le energie rinnovabili e si sono consolidate, sono maturate delle tecnologie. Questa maturazione porta naturalmente a un abbassamento di costi, perché comunque noi riusciamo a produrre meglio e con meno. L'obiettivo di noi che costruiamo cose alla fine è dare un buon prodotto ma anche a un prezzo adeguato, perché poi l'obiettivo è quello lì, e in questo siamo migliorati, diciamo così, naturalmente. Le speculazioni ci sono state, ma sono state più dalla parte burocratica, non so se mi spiego, più sono state speculazioni molto di carta, ma dal punto di vista della produzione, della gente che lavora, no, il miglioramento è concreto. È vero, noi oggi produciamo pannelli solari a un costo molto inferiore in Italia, produciamo tutto a un costo inferiore in Italia perché abbiamo raggiunto certi numeri, che abbiamo ammortizzato gli impianti. A proposito di produzione, voi negli anni avete fatto sì di riuscire a produrre in Italia tutto ciò che vi serve per il vostro lavoro. Allora, l'Italia e i lavoratori italiani, la gente che lavora in Italia, non ha paura di nessuno al mondo. Non siamo indietro, noi siamo più avanti. E questa è la nostra vera forza, che poi serve uno scatto morale da parte della politica e da parte della burocrazia, è fuori di dubbio, ma non a livello di produzione. L'altro pianeta. Proseguiamo quindi la nostra chiacchierata con Marino Piasentà, inventore del sistema FE, ma ideatore di molti altri sistemi derivati da quello per il riscaldamento e il raffrescamento con l'uso esclusivo di energie rinnovabili. Proprio grazie a questa sua continua attività di sperimentatore, Piasentà dispone di apparecchiature che, ripete anche in questa occasione, sono a disposizione di chi ha le idee ma non sa come realizzarle o anche solo provarle. Noi abbiamo le macchine per costruirle, abbiamo i mezzi per costruire praticamente tutto. Lavoriamo comunque materia grezza e la traduciamo nei modi che vogliamo. Se qualcuno ha una buona idea ed è in grado anche di svilupparla, di farla concretamente, viene da noi, ce la fa vedere, le discutiamo, lo mettiamo sotto a lavorare e facciamo anche i prototipi, facciamo queste cose qua. Nel tema delle idee, noi collaboriamo, ti ho fatto vedere prima in separata sede, quello che sarà il nuovo impianto elettrico è un impianto elettrico totalmente esterno. Si tratta di un film sottile della spessore di 3 decimi di millimetro che sostituisce tutti i cavi elettrici e tutti gli scassi nei muri. Questo è uno dei nostri collaboratori, si chiama Diego De Fecondo, ha inventato questo tipo di nastro che può portare, è un nastro adesivo che porta la corrente elettrica, che cambierà tutto il modo di fare gli impianti elettrici, e questo c'è solo in Italia. Poi, sempre parlando di eccellenze, di cose che mi sono piaciute, Stefano Sciurpa, l'ingegnere Stefano Sciurpa, qualcuno avrà visto qualche anno fa a Desenzano, sul Garda, c'era una pala eolica orizzontale proprio sull'autostrada, ed era il suo esperimento. Quella pala eolica aveva un generatore da 2,2 kW e alla fine di un anno ha prodotto 300 MWh. Ha vinto poi il premio di Enel Lab, e ha iniziato la produzione industriale, e quest'anno, entro 2 mesi da oggi, ci saranno 20 postazioni di produzione di energia elettrica lungo le autostrade con delle pale poco invasive, molto belle tra l'altro, che mi hanno appassionato molto, e anche questo è un fatto solo italiano. Poi proseguirà magari sulle linee ferroviarie, perché la pala eolica lavora col vento, questa è una pala orizzontale, bassa, poco invasiva, poco rumorosa, lavora col vento e sulle autostrade o sui percorsi ferroviari è costante, La produzione dunque è costante ed è normalizzata. Ora, produrre corrente... Perché il vento lo genera il traffico. Lo genera il traffico, il camion che passa, il treno. Cosa succede? Succede che noi abbiamo, in Italia, abbiamo detto no al nucleare. Alcuni stanno cercando in tutti i modi di portarci a lavorare col gas, con le combustioni chimiche, rubando l'ossigeno dell'aria e facendo inquinamento. Però in Italia noi il gas non ce l'abbiamo. Noi in Italia abbiamo il sole, l'acqua e il vento. E soprattutto il sole, l'acqua e il vento hanno un'altra cosa buona, sono gratis. Ecco, noi dobbiamo sviluppare di lì. Ci vorrebbe uno scatto morale della politica che al posto di sovvenzionare solo gli inquinatori, e ha tolto quest'anno tutti i sovvenzionamenti invece alle energie rinnovabili vere, sviluppasse quel settore dove noi tra 20 anni avremo energia completamente gratuita, non avremo più da pagare nessun combustibile, e questo libera l'Italia dalla schiavitù rispetto a potenze straniere che, come nel caso del Kazakistan, a volte vengono qui, fanno anche la voce grossa e dobbiamo abbassare la testa. Mi hai portato verso l'estero e quindi io ti porto verso il vostro progetto in Egitto. Quando appunto in estate ne abbiamo parlato, l'Egitto stava attraversando un momento di particolare instabilità, il progetto non si è mai fermato, ma certo qualche ritardo ve l'ha creato. Adesso a che punto, anzi prima di tutto ricapitoliamo che progetto è e poi ci dice a che punto siete però. Progetto Eliopolis che abbiamo sviluppato col Politecnico di Torino, la nostra ambasciata in Egitto, l'attorney scientifico è Franco Porcelli, è andato avanti come progettazione e come tutto. Consiste in questo: in Africa non manca il cibo, in Africa manca una corretta catena del freddo, perché se hanno, diciamo così, copiando, hanno fatto i supermercati o i centri commerciali sul modello occidentale e tutti possono andare al Cairo o in qualsiasi altra città africana e andare al supermercato a comprare, vedono dei frigoriferi normali, banchi normali, ma è dietro e a monte che manca la catena del freddo, il concetto di catena del freddo. Il progetto Eliopolis, noi mettiamo un impianto fotovoltaico che produce della corrente elettrica. Sotto l'impianto fotovoltaico ci sarà una coltivazione. Questa coltivazione viene mantenuta intanto in ombra, che comunque noi abbiamo dei problemi di troppa insolazione nel deserto del Sahara. È in ombra, abbiamo fatto degli spiragli, tutto uno studio delle luci in modo che abbia la luce giusta, e dal sottosuolo gli viene portata l'acqua per poter crescere. Una volta coltivato il nostro campo, abbiamo messo sotto 2 celle frigorifere. In una conteniamo tutti i nostri strumenti tecnologici refrigerati e protetti. Nell'altra, è completamente libera, viene portato immediatamente il prodotto dal campo in cella frigorifera. Ora, questo è il seme che vogliamo piantare nelle menti, è l'idea che vogliamo far germogliare in elementi, perché sono convinto che quando vedranno che dal campo entra in cella frigorifera, immediatamente dopo prenderanno un camioncino refrigerato per portare la merce al supermercato. Lo spreco di derrate alimentari in africano è superiore certamente all'86%. Riuscire a portare questo sistema, questo modo di lavorare lì, significa risolvere il problema della fame, ma c'è un altro problema, che è quello dei costi. L'energia elettrica costa, il frigorifero in Africa costa perché fa molto caldo, e questo è quello che noi abbiamo fatto adesso a Villa Cortese, che tu hai visto, abbiamo fatto degli esperimenti, abbiamo portato avanti questo progetto in modo da fare un sistema frigorifero nuovo che consumi molto meno, con costi molto più bassi, perché il problema vero è che su queste derrate alimentari noi stiamo aggiungendo un costo. Benissimo, se noi riusciamo a ridurre questo costo, il gioco è fatto. Riusciamo a salvare. Si chiude il cerchio. Hai la produzione di energia, hai la refrigerazione, hai addirittura una coltivazione, perché poi si può continuare a crescere, ecco. Esatto. E anche a sognare qualcosa. E conquistare spazi al deserto, perché molti oggi stanno pensando delle cose molto cattive sull'umanità. Bene, 4/5 dell'umanità abitano 1/7 del pianeta. Tutto il resto è disabitato e inospitale. Se noi però riusciamo a creare le condizioni di ospitalità e di vivibilità umana in termini economicamente validi anche nelle terre inospitali, il problema di avere troppi uomini sul pianeta non esiste. Non siamo neanche, siamo una minima parte di quelli che ci stanno. Io credo che proprio questa crisi così forte, da un lato ci può portare verso le guerre, ma dall'altra parte ci può portare verso lo sviluppo. Ed è una scelta che dobbiamo fare oggi, la facciamo solo con intelligenza, se no siamo in guerra. Cosa devo commentare? Speriamo di no. Questa è una possibilità di uscire dalla crisi, ovviamente, tu ricordavi, ma tutto in generale, il vostro lavoro e il vostro pensiero sono anche possibilità di sviluppo per uscire dalle crisi, perché poi ne attraversiamo tante, che c'è quella economica, c'è quella ambientale, c'è quella della sostenibilità della nostra vita sul pianeta e così via. Tutto questo non vi porta, visto anche come dicevi prima, la politica italiana non riflette su questi temi, non vi porta a uscire dall'Italia? Sì, ci sono, ecco anche qui, come imprenditore, come industriale, si parla tanto di delocalizzazione. Molti industriali, molti imprenditori se ne sono andati. Negli ultimi anni noi abbiamo perso forse a metà del nostro tessuto produttivo e abbiamo perso anche cultura, perché quando se ne va al lavoro se ne va la cultura del lavoro, vanno via le competenze, le conoscenze, i cervelli, è un disastro. Però io ho visto un nostro amico comune fare una scelta virtuosa. C'è un'azienda che lavora sempre con noi, fa pannelli fotovoltaici e decide di aprire in Argentina perché ha un mercato e dice: voglio vendere i pannelli solari che produco io in Argentina. Qui in Italia ha delle linee di produzione fatte bene, che producono nei tempi giusti, nei modi giusti e con maestranze qualificate. E a questo mio amico è venuta questa idea, Paolo Mara e Siccardi, il suo presidente, e Spada, gli sono venute queste idee qua. Io prendo la mia linea di produzione italiana così com'è, che è stata gestita, curata, è finita e lavora bene. Le macchine, ma anche tutti gli ammenicoli, perché la produzione è fatta di molte cose, è complessa. Prendo tutto il pacchetto completo e lo trasferisco in Argentina. Non pago i trasporti, perché comunque non avevo più da vendere i pannelli solari da qui a là. Trasferisco tutto là, non pago il dazio che dovrei pagare in Argentina, mi conviene farlo. Trasferisco tutto là e comincio la produzione. In Italia molte aziende, a causa di questa situazione di fotovoltaico, hanno chiuso. Recupero le macchine del fotovoltaico dalle aziende che hanno chiuso, ma le mie maestranze, i miei tecnici sanno lavorare, perché hanno lavorato fino adesso con delle macchine, dei modi, dei metodi che funzionavano bene. E quando gli do delle macchine anche non perfette come vorrei, però sapranno metterle a posto in Italia, stando in Italia, e rifarmi un altro impianto uguale a quello che avevo. E così hanno fatto. Adesso hanno due fabbriche, stanno avviando anche la terza in un altro paese straniero. Però è un modo di delocalizzare virtuoso, perché l'operaio, il tecnico, la sua cultura di lavoro è rimasta qui da noi, è in Italia, e noi trasferiamo semplicemente il nostro know-how all'estero. Questo per dire che noi non siamo secondi proprio a nessuno. Noi non dobbiamo andare via dall'Italia. Dobbiamo stare qua e dobbiamo portare dei pezzi d'Italia all'estero, ma non andar via noi. È tutto per questa puntata, ringraziamo ancora Marino Piasentà per la cortesia, la disponibilità. Curiosate nel progetto Eliopolis, frugate nella pagina internet del programma L'Altro Pianeta, che troverete ovviamente su radio24.it. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.